Capitano, ha capito? Sì, presentiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo. I primi numeri di targa sono N5. No, dovrebbe andare personalmente. E non può. Non può? Dovrebbe per forza. Cortesia, no. Mi dispiace, ma... Cioè, se lei telefona, non... verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era. Ce l'ha fatto espressamente per farvi con mio padre, la prego. Certamente. Potevo farcela con urgenza, perché le volontà, l'ultima volontà della mia era questa, cioè di comunicare alla famiglia, perché la famiglia doveva riavere il suo corpo. Va bene? Arrivederci. Va bene. Questa è una gabbia di mano. Thank you.